Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Settimana numero 36 di Eclettica, in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM, frequenze reali o virtuali, a seconda che state ascoltando via radio o grazie al podcasting. Giulio at radiorockfm.com è l'indirizzo a cui scrivere. I motivi più diversi vi verranno spiegati nelle quattro parti di Eclettica di questa settimana. Scrivo dei giorni prima che le cose impazzissero, quando c'era da dire addio alle superiori, pensare all'università, alle ragazze, ai party e alla grande nottata horror del venerdì al drive-in Orbit, quello a fianco dell'interstatale 45, il più grande drive-in del Texas. Del mondo intero, a dire il vero, anche se dubito che esistano molti drive-in, per esempio in Jugoslavia. Pensateci un momento. Ripulite la mente da tutto il resto e vedete se riuscite a immaginare un drive-in tanto grande da poter contenere 4.000 automobili. Voglio dire, pensateci sul serio. 4.000! Viaggiando verso l'Orbit ci capitava spesso di attraversare cittadine con un numero di abitanti inferiore a 4.000 scritto sul cartello segnaletico. E considerate che ognuna di quelle automobili conteneva in genere almeno due persone, spesso di più, senza contare quelle nascoste nei bagagliai, e starete pensando a un sacco di automobili e di persone. E una volta all'interno, riuscite a immaginare sei mostruosi schermi da drive-in, alti sei piani, con sei pellicole diverse proiettate contemporaneamente? Anche se riuscite a immaginare tutto questo, è impossibile, se non ci siete mai stati, che riusciate a immaginare quello che succede il venerdì sera, quando il biglietto d'ingresso costa $2. E le automobili si mettono in fila per la grande nottata horror, per incollare gli occhi sui sei schermi che grondano secchi di sangue e sparano decibel di urla dal tramonto all'alba. Questo era l'incipit della notte del drive-in di Joe R. Lansdale. Save you from the dark. I've been trying to maintain, but it's always in vain, and I'm I found a space between for all those memories out in the black where they keep me company. I've been trying to maintain,

E si è aperta così anche la prima parte di Eclettica, tutta dedicata agli Stati Uniti, dalle parole di Joe R. Lansdale alla musica che poi avete ascoltato, perché sono due produzioni statunitensi, ma a differenza di Joe R. Lansdale, i due artisti che ci siamo ascoltati, in effetti negli Stati Uniti ci sono arrivati, lì hanno creato la loro opera, non è che siano proprio di lontana origine statunitense, non possiamo definirli Wasp, insomma. Per esempio, il primo di questi risponde al nome di Imad Vasif e incide per la etichetta di Washington, o meglio di Olympia Washington, dal nome Kill Rock Stars. Imad Vasif prima era il leader di una formazione il cui nome era Alaska, con il punto esclamativo finale, e ora esce con questo suo esordio solista omonimo, dal quale ci siamo ascoltati come primo brano di Eclettica, Out in the Black. Poi Caracas, Venezuela, e questa è la terra di provenienza di Luisito Quintero. Percussion Madness è il disco che grazie a lui Vega è riuscito a pubblicare per la BBE and Rapster Records, che è ritornato all'interno delle playlist di Eclettica dopo anche qualche commento molto piacevole che ho letto da parte di qualche partecipante alla lista nera di Eclettica, di qualche membro della lista nera di Eclettica. Luisito Quintero, che suona quindi nel gruppo di Louis Vega, ma che si è dedicato anche a un disco solista del quale ci siamo ascoltati, Acid. E per riconfermare il nome che questa trasmissione si è scelta, Eclettica, ora ci trasferiamo in Sicilia, terra in cui creava la sua musica una cantautrice il cui nome era Rosa Ballistreri, e a cui Etta Scollo, artista italiana ma da molti anni trasferita in terra germanica, ultimamente a Berlino, Etta Scollo aveva dedicato un primo disco con una orchestra alle canzoni di Rosa Ballistreri, intitolato Cantarò, e ora è uscita recentissimamente con un altro disco invece molto più ridotto, molto più minimale, Cantarò in trio, in cui l'omaggio è sempre alla sua conterranea. Etta Scollo, quindi, che ci ascoltiamo con questo brano, e mi scusino i siciliani all'ascolto per la eventuale errata pronuncia, per l'eventuale errato accento, brano che si intitola Muccaturi. Talumen su no aquilariali di punta a punta laio aracmari in talumenzo un'aquila un'aquila I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet. Oh, well, that's good. But we're not on my planet, are we? Bird. Burning. Burning è il titolo del brano per The Whitest Boy Alive, che escono per Sleeping Star. La voce riconoscibilissima è quella di Erland Hoy. Allora, Giulio Caperdoni risponde all'indirizzo giulio@radiorockfm.com, lo fa veramente, prova provata, e avete anche un modo molto facile per verificarlo. Vi avevo promesso in inizio di trasmissione che vi avrei elencato nelle quattro parti tutta una serie di motivi per scrivere a quell'indirizzo. Uno di questi motivi è per esempio quello per poter vincere qualche cosa, che potrebbero essere biglietti, potrebbero essere anche dischi. Ora vi parlo di biglietti per quanto riguarda la serata del 28 di giugno, Marco Parente alla Casa 139 di Milano. DVD Recording è il nome della serata, come le altre per cui avevo messo in palio i biglietti. Quindi se ci volete andare, giulio@radiorockfm.com, questo è l'indirizzo a cui scrivere. E invece per quanto riguarda i dischi, ma sì dai, vi racconto subito anche questa storia dei dischi. È una bella storia perché per qualcuno di voi avrà il lieto fine. Flaming Lips in arrivo in Italia a inizio di luglio. Ci saranno due date, per queste due date di Ferrara e di Roma metterò in palio i biglietti, ma sottolineo, non li sto mettendo in palio ora. Invece, per prepararci all'arrivo tanto atteso dei Flaming Lips in Italia, ho a disposizione qualche CD singolo, quindi non fatevi illusione di un album, però qualche CD singolo che potrebbe arrivare direttamente nella vostra casella di posta, quella fisica, non quella virtuale internet. Quindi nel caso vogliate vincerli, vogliate essere sicuri di vincerlo, dovete scrivere velocissimamente. Quindi lo so, sono favoriti quelli che stanno ascoltando in diretta, non grazie al podcasting, ma magari per quanto riguarda i biglietti invertiremo le cose. Ok, quindi per i dischi giulio@radiorockfm.com. E io chiudo questa prima parte di Eclettica con un lungo brano, che è anche il brano che apre North Atlantic Treaty of Love, il nuovo dei Giardini di Miró per la Second Recordings, brano che ha per titolo Otello. Thank you. Eclettica. Fine della prima parte.